passi per mari e monti e non ti accorgi che nella vita son solo momenti, ed essere pronti ed essere attenti non è così facile. Sogni, ma quanto sogni ad occhi aperti, ma nell'Italia di oggi se conti e i parenti belli importanti, vai pure avanti e ti accorgerai e ti pentirai di quelle scelte che hai preso in passato, ma non è stato tutto sbagliato, rimorsi e rimpianti mai. Forse se fossi stato più incoraggiato, ma non si piange sul latte versato, ma senza i forse continuiamo a sognare un po'. Ci sono notti in cui tu forse non dormirai, ma quelle notti in cui i tuoi sogni sono più belli che mai, quelle volte che so che se credi si può, quelle volte che mi incazzo con la vita che ho, ma son scelte che tu forse non prenderai, sono frasi che già scritte non cancellerai, quelle volte che so che sognare si può, anche di giorno mentre vivo tutto quello che ho. Speri, ma quanto speri, a volte sembri uno di quelli che vive di sogni, ma la realtà del mondo qui fuori non è così facile. Monti, smonti e rismonti, fai e poi dispi, mille valigie per due soli viaggi ti porteranno dove non sai, il posto non conta più. E poi incontrerai e riassaggerai posti e persone che avevi scordato, ma non è stato tutto voluto. Le strade si cambiano, pensi e poi ripensi, ma poi ti accorgi che non serve più a niente cercare una soluzione, qui c'è l'amore, il resto non conta più. Sognare si può anche di giorno mentre vivo tutto quello che ho.